nuova Papa GL Mobile va ora in onda Opencast Alpha. Opencast Alpha, puntata numero, mi dicono, 35. Siamo direttamente collegati col nostro sito per ricordarci quale puntata stiamo registrando. Ma perché non ce la ricordiamo? Perché non la guardiamo? Non ce la ricordiamo perché ne facciamo talmente tante che è difficile starci dietro. Abbiamo una pessima memoria, ok, sì. D'accordo. Sì, sì, la verità è quella. Stasera registriamo in uno studio diverso dal solito. Si sente dall'eco? No, non si sente dall'eco. Se vuoi te lo faccio io. Fai l'eco, eco, eco. Eco, eco, eco. Ok. Siamo nella sede... Oni. Questo parlava di te. Ha detto, ovviamente era l'eco di Maglioni. Esatto. Maglioni. Esatto, ripetiamo. Maglioni. Grazie. Oni. Siamo nella sede instabile del GL Como. Instabile perché oggi c'è, domani non si sa. E stasera siamo in un numero considerevole, direi, a registrare questa puntata di Opencast Alpha. Chi è che c'è? Abbiamo degli ospiti eccezionali, abbiamo i ragazzi che altre volte ci hanno accompagnato, Elena e Diego, in questa avventura. Potremmo chiamare anche Ale e Franz. Sì, puoi chiamarli, però devi chiamare più vicino al microfono, sennò non ti senti. Ale e Franz! Grazie, così era un po' troppo, ma va bene. E ci sono anch'io che sono tornato. Esatto, e poi abbiamo anche dei personaggi che poi... ci introdurremo. Esatto, si introdurremo. Spacciatori. Spacciatori di mancato? Hardware. Mi sono mancato. Ah, poi è tornato l'uomo del Giappone. L'uomo del Giappone. Esatto. L'uomo del Giappone non è un nome a caso. Ero in Patagonia. Pensavo uomo. Eri dentro uomo. Certo che siete in due e nessuno di due si sente. Siete veramente belli. Che bravi che siamo. Credo che questa puntata ne guadagnerà del fatto che abbiamo pochi microfoni. E vai. Esattamente. Ma proprio il nostro è quello rotto? No, non è rotto. Siete voi che siete rotti. Siamo rotti noi. Esatto. Davide, tu dov'è che sei rotto? No. Esatto. Non si è sentito il commento, ma non ripeteremo perché può dare adito un po' a delle... battute. Vogliamo parlare di cose serie? No. Serietà. Prima di tutto serietà. Vai. LibreOffice 4. Questa è una notizia interessante. Basta. Quello che so. È uscito LibreOffice 4. E non è cambiato nulla. No, un po' è cambiato. Hanno tolto i commenti in tedesco dal codice sorgente. Ah, è vero. Hanno tolto i commenti in tedesco. Hanno tolto un po' di codice che non serviva più. È diventato molto più veloce, ci dicono da fuori campo. Davvero. Da dietro il vetro, ci dicono. Messo ancora il bottone quello per chiuderlo? Il bottone per chiuderlo? La X, quella rossa. Sì, beh, quello... No, devi spegnere il computer. Esatto. No. È una nuova versione, è una feature però, non è un bug, è una feature. L'edizione. Qui qualcuno l'ha provato? Su Gentoo ancora non è arrivato. strano. Sto aspettando. Stavo usando la 2.4 per... Vabbè, anche, da dietro al vetro ci dicono che è stato provato sotto Windows. Io l'ho provato sotto Mac. Anch'io, no, anch'io l'ho provato sotto Windows. Io l'ho provato sotto Mac in ufficio. Siete dei bastardi. La cosa che mi ha più divertito è il supporto per persona. Ligia. Che è quella, il gioco? No, è quella cosa che Mozilla aveva messo in Firefox per fare dei temi veloci. Praticamente è un'immagine che si mette di sfondo alle, esatto, alle barre degli strumenti. Quella è la roba che mi ha colpito più di tutte. Però, no, però ho provato un po' e funziona bene. Nel senso, bello persona. Leggero, preciso. No. L'ho trovato molto più veloce rispetto al precedente. È lo spacciatore che parla. È lo spacciatore. Io sarò controcorrente. Pareva uguale la velocità. Però vabbè, sarò io. È perché tu hai il computer già veloce. Tu devi provarlo su un computer che non è veloce. Su un computer che non è veloce, no. Dove non, non io avevo il 3.5, tra l'ultima 3 che c'era, con file di grosse dimensioni, oltre il milione di verso il milione di righe. C'era una grossa differenza. Io lo uso. Ne hai di roba da scrivere? No, più che scrivere, devo importarla e manipolarla. Volevo dire un altro termine, ma. Siamo in fascia protetta. Cioè, io so che hanno lavorato molto sui filtri, sui programmini per importare doc, docx, xlsx e menate varie. E hanno lavorato anche sull'esportazione in PDF. E adesso sembra funzionare un pelino meglio. Ecco, diciamo che non ho avuto occasione ancora di provarlo. Il limite che aveva, che aveva prima era Impress, che era effettivamente le importazioni dei file. Facevano schifo. Facevano schifo. Se dall'altra parte c'era un file piuttosto elaborato, diventava veramente qualcosa di improponibile. Io ho provato ho un docx che lo chiamo il docx di referenza, che deve essere stato fatto male su Word. Quindi, cioè, male su Word è facile. Ma è stato no, ma questo, cioè, non è fatto, vabbè. Questo non è fatto male, più male. Ah. Proprio uno di quelli brutti, e fa fatica Word ad aprirlo. Solitamente OpenOffice, LibreOffice, KeyPress lo spaccavano. Lo spacca ancora. Quindi, dovresti mandarglielo. Dovrei mandargli, gli mando il docx di referenza e gli dico: va bene, è rotto. Questo Alto. È rotto. Ditemi perché questo è rotto. Però effettivamente devo provarlo anch'io. Impress con dei PowerPoint fantasiosi. Quelli con l'audio embeddato, magari. Ma quelli ancora. Sono quelli. Guarda, lascia perdere, non in giro alcuni. Io ho paura perché hanno anche tirato via un casino. Ma di commenti. Un casino, a parte i commenti in tedesco che. Mi piaceva proprio leggerli, ma un casino di future per il discorso macro futures. Che tanto non è il futuro, quindi sì. I futures tanto per non le hai mai usate per le macro. No, c'erano molte cose di 1, 2.1, 1.1, 1.1. No, l'ho fatta una, ne ho fatta. E non usavi le funzioni che hanno tolto. Non lo so, ancora non l'ho aperta. Dei preview sembra che abbiano implementato parecchio la grafica di del calc per renderla molto più simile. Che grafica del calc? La simpatia a mille, certo. Per renderla molto più simile all'Office 2010-2012. Ah, che fortuna! Beh, non sembra, ma nelle aziende colpisce parecchio. È l'unico modo per far finta, gli cambi il nome, dici. È la stessa cosa che facevi con Firefox. Sì, esatto. uguale Firefox. Gli mettevi l'icona di Internet Explorer. Ma sei sicuro? Sì, è sempre lui. Mamma e internet, non ti preoccupare. Va bene, stasera la musica che ascolterete che avete già ascoltato, il pezzo in apertura era dei nostri amici Hot Fiction. Il pezzo era Truly Dark, scelto dal nostro amico Tullio qua. A caso. La musica stasera l'ha scelta lui, per cui se avete dei commenti da fare negativi fateli a lui, se sono positivi fateli pure a tutti, perché ci fa piacere. Dobbiamo rivelare però l'algoritmo di scelta della musica. Ma che penso che l'abbiano capito chi ci segue attentamente, che Davide è attratto dalle capacità canore delle persone in copertina. Delle persone in copertina. Sai quando dici guarda che bella personalità canora che ha. Esattamente, quella. Vedo che hai capito. Soprattutto hanno tanto fiato. Tanto fiato, esattamente. Più fiato hanno, più gli piacciono. Il prossimo pezzo invece ce lo presenti tu con tutto, perché l'hai scelto tu, ci devi dire chi è, che cosa fa e perché. questo è uno che abita in una casa, beve tequila e allora ha deciso che si chiama Tequila e il titolo del brano tuo. Si chiama Home. Non hai letto Mockingbird perché non riuscivi a leggerlo. No, perché non ci arrivo da qui. Leggo solo Tequila e Home. Opencast Alpha, siamo tornati con una musica. Hai sentito la musica? C'ero io col clarinetto che suonavo di maledetto. Era quando era tutto distorto. Distorto. Esattamente. A palla. Mi è piaciuto il finale perché era proprio così coinciso il finale di questo hai pezzo. Hai sentito il mio amico Tequila? Il tuo amico Tequila. Aveva una voce un po' così. Lui beve poi. E viene questa voce. Sì. Ho capito. Stasera è una serata dove gli argomenti sono caldi, scottanti. E frizzano. Uno degli argomenti più caldi sulla rete in questi giorni, in queste settimane, diciamolo, il Papa si è dimesso. Sì, ma non è di quello che volevo parlare. Vabbè, diciamolo, è iniziato Sanremo. Sì, però... ma non è quello di cui volevo parlare io. Esatto. Ha nevicato. Sì, ma non era quello. Vai pure avanti, scegli un altro. Un'altra cazzo. Ho comprato il primo dominio XXX. Cioè il tuo primo. Mio primo. Ah. www.ilprimodominio.xxx. No, è Tullio.x, tu non vuoi sapere Tullio cosa XXX. No, l'argomento caldo e frizzante di queste ultime settimane sono i portatili della Samsung che montano il firmware Wi-Fi da tutti conosciuto per la cattiveria con cui si... Il diavolo. Esatto, si è proprio così, cattivo. Appropria un po' della tua libertà. Il problema è che questi portatili, come ci racconta la nostra brava Elena, si bloccano. Sì. sì, se ne sono accorti installando Linux in modalità UEFI. Era difficile non accorgersene, non partono più. Sì, appunto, se ne sono accorti perché dopo aver installato Linux non partivano più i computer e non erano riparabili. Ma perché i primi due o tre hanno detto, boh, forse c'è lo sfondo nero, forse il mouse ha il puntatore nero, io non capisco, ma perché questo Linux non funziona? Si no, sarà scaricata che... la batteria, può essere. No, è che il primo ad accorgersene è stato il primo che ci ha installato Linux. E vabbè, inizialmente si pensava fosse un problema dell'installer Linux, che ha detto così. What the fuck. Invece si sono accorti che il problema consiste nel sistema UEFI di Samsung, che se trova dei dati in una locazione di memoria dove UEFI tiene dati di debug, non parte. Questo significa che i progettisti della Samsung hanno predisposto un portatile e l'hanno messo in lo commercializzano senza aver provato ad installare un Linux qualsiasi. Sì. Sì, ma il vero problema è che si blocca. Il vero problema è che lo si può far bloccare anche sotto Windows. Immagino, perché una volta perché che sai dove andare a scrivere. Perché le specifiche UEFI prevedono questo spazio di memoria nel caso in cui il sistema si blocchi e abbia bisogno di dare dei messaggi di debug. Linux lo sfruttava e il UEFI della Samsung non era in grado di accendersi. E quindi il UEFI che era stato fatto per mettere in sicurezza i computer probabilmente adesso sarà sfruttato da dei virus che andranno a scrivere sì, lì sì. E tu ciupa che trovi più i tuoi esatto, dati. Esatto, devi prendere il portatile, riconsegnarlo al negozio. E i tuoi dati? I tuoi dati ci saranno. Il problema è chi altro avrà i tuoi dati. Il vero problema è quello, diciamo, perché Corona dov'è? Giusto per sapere. UEFI che ti protegge. Ma UEFI ti protegge. Ti salva la vita. Non ti fa partire sistemi operativi che possono essere ambigui. Ambigui. Poi dopo si blocca, però non te li fa partire. Comunque il consiglio è, se avete un portatile Samsung, usatelo in modalità BIOS, anche se avete Windows. Consiglio. O meglio, non usatelo con Windows, che è meglio di no. Però non se usatelo. Se lo volete usare in modalità BIOS. Non si rovina se non lo usate. Meglio. Non. Ecco. Non. Va bene. Altra news. Vai. Un'altra news di quelle calde frizzanti. Di quelle calde frizzanti. Il nostro uomo del Giappone è arrivato carico. Questo mese che è febbraio, ricordiamo. Sì, bravo. Com'è? Quindi fa freddo. Febbraio, quindi fa febbro. Uno l'ascolta a marzo questa puntata. Dobbiamo fare una reference. Adesso è febbraio. E dicevo, non fatemi perdere in queste inutili cose. A febbraio rilasceranno, per gli sviluppatori almeno, Ubuntu per cellulari. La cosa un po' mi preoccupa, Sto pensando, quindi non hanno ancora rilasciato nonostante sia a febbraio. Nonostante sia febbraio, a fine mese hanno detto. A fine mese. Quindi ne parleremo il mese prossimo. Per me ne parleremo tendenzialmente il mese prossimo. Chi è che lo proverà? Io. Ok. Perché non per altro, ma serve. Andrà solo su un telefono, la prima il release. Nexus. Che è il Galaxy Nexus. Hanno detto, vabbè, serviva un telefono in cui si aveva tutto e hanno detto, lo facciamo del Galaxy Nexus. Per dire. Giustamente. Perché anche non l'ha fatto per il mio Nokia, per esempio? Perché non ce li avevano in casa. Non erano molto pronti. Glielo prestavo, Ma poi se ti chiamavo mi rispondevano loro. Certo. Ma telefonerà? No, funziona già tutto. È completamente. L'hardware è 100% supportato, tutto NFC, wireless, accelerazione grafica. C'è solo un problema, non si spegne. E che kernel usa? Non si sa ancora quello. Comunque l'ultima ha detto che è tutto e per tutto uguale a quello dell'ultima versione di Ubuntu. L'unica cosa che cambia è l'interfaccia grafica. Unity? No, è un nuovo Unity per cellulari. È fatto apposta con un'interfaccia completamente nuova. E questa è bella. La cosa strana è che è bella da vedere. Telefoni. È bella. Con la Y finale. Telefoni. Però è fatta bene, stranamente. E la cosa bella è che hanno detto che è stranamente, sì. Ma anche quella è tra sud e choc. No, sì, il colorino, sì, il colorito lì è un po' sì. Forza. Però sembrano aver fatto un buon lavoro. Il vantaggio è che hanno detto che sarà compatibile con tutto il software attualmente disponibile per Ubuntu. E quella lì è comoda come cosa. Sì. La domanda che un po' tutti si faranno è: ma mi volete far credere che hanno portato Skype per ARM? Ho i miei dubbi. Però nel video che presentano si vede esplicitamente Skype girare su quel telefono. Quindi potrebbe essere una cosa molto buona per tutte le persone che usano ARM e cercano eventualmente Skype. eventualmente su Linux. Sì, chiaro, su Linux. No, infatti, quello che mi stavo chiedendo io. Skype? Sono perplesso. Siamo perplessi? Perplesso anch'io, però. Siamo perplessi. Siamo tutti perplessi. Nel video c'è esplicito proprio. Vedremo, vi farò sapere dopo i test. Esatto, l'importante è che lo rilascino, perché sennò non posso testare una cosa che non c'è. Farima e c'è. In questo momento ci sono solo le schermate. Anche dei video, sì. Cioè, video e cose funzionano. Cambia poco. Ci sono delle schermate in movimento. Sono schermate animate. Fatte in stop motion. Cioè, hanno fatto dei disegni. Dei disegni e li fanno scorrere rapidamente sul blocco note. Adesso questa notizia, cioè un po' ci perplime ancora questa cosa di... Devo dire la verità, devo correre in bagno dopo questa notizia. No, questa cosa di Skype un po' ci perplime, resteremo... penso che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento saranno andranno in bagno. Per esempio la Shuragina sul pullman in questo momento, la che Gina. Ci sta ascoltando sul suo... Galaxy Nexus Walkman. Sì, perché sta cercando di mettere Skype sul Walkman. No, si fa scaricare Opencast dal nipote, che poi gli fa le cassettine. Le cassettine. E lei sul Walkman se l'ascolta. Il Super 8. Esagero, no, Super dai. 8, no, esagero. Le usavamo noi. Anzi, usa le DAT. Quando io ero giovane. DAT, che ricordiamo il formato sfortunatissimo Digital Audio Tape. Ah. Bello. Però era bellissimo. Poi era bellissimo, ma non usava nessuno. Ci ha provato probabilmente un letto. Solo per i backup. Esatto. Dopo quello, no? C'era anche quello solo per l'audio. Avevamo fatto dei lettori molto poco fortunati. Comunque, niente. Ciao, allora, posso andare in bagno adesso? Falla tutta. Credo che devi presentare la prossima canzone. Allora, la prossima canzone. Cioè, solo per darti me. Il tempo di andare in bagno. Dov'è che è? Madonna, se sei ciecato. Natural Body. Poi c'è qualcosa. Te. Sì, insomma, non sai che cos'è. L'hai scelta, ma non sai che cos'è. Bellissima, bellissima. Guarda che non dura tantissimo, per cui vedi di essere allora, veloce. Dai, aspetta, attaccala. Ora, basta. No, finita. Dai, siamo finiti. Senti come pompa. Se l'è fatta addosso. Senti come sale. Sì, ma non ho neanche tirato l'acqua. Vai, intanto andiamo avanti noi. Cioè. Scusa, cioè, mi dici... Aspetta. No. Aspetta, rumore di fondo. Ma lascia star la Clara che dorme. Ah, e senti come russa. È precisa lei, eh. Che roba tremenda. A proposito di russa, la prossima sentirete che canzone. Una canzone russa. Vogliamo lasciare il tempo a Tullio di finire in bagno. Esatto, intanto noi si parlava di stampanti in 3D. Tutte le stampanti sono in 3D, eh. Hai mai visto una stampante in 2D? Sì, è una volta foto, sì, ho visto la foto di una stampante. Esattamente. No, non stai parlando di stampanti 3D? No, perché c'era un progettino del GL che non sapeva come spendere i soldi. Allora le alternative erano mignotte, alcol, droga o stampanti 3D. Quindi abbiamo stampanti fatto 3D. Una votazione. Il mio voto per mignotte, tutto il resto, alcol e droga è stato dichiarato nullo. E allora hanno vinto per ora le stampanti 3D. Quindi la questione è, se avete voi ascoltatori qualche esperienza di stampante 3D, Bastardo, è finito la droga. Lasciateci un commento un po' roboso. www.gl-como.it, il sito del GL Como, dove trovate le puntate del podcast e dove potete commentare alle cagate che abbiamo detto anche in questa puntata. Se avete qualche esperienza sulle stampate 3D, fatecelo sapere, diteci che cosa avete fatto, come e perché. Forse non proprio tutto quello che avete fatto, così. Conoscendo i nostri esatto. ascoltatori anche meno, eh. Facciamo una cernita, ecco. Sì, sì, sì, ci dovrebbe essere qualcuno che li legge quei commenti. Sì, poi, dovrebbe, eh. Esatto. E niente, per cui forse prossimamente potremmo anche vendervi delle statuette di Tullio in 3D stampate. Stavo pensando di fare dei bagni io. Dei bagni? Sì, dei bagni a grandezza sì, naturale. Sì, dovresti farne uno, però può essere il un altro bagno, discorso. Non lo so. Potremmo fare il bagno della regina. Che cazzo? Scala 1 a 1. A me sembra invece, sai che c'è la Radio 24 che cercano assiduamente il busto di Mussolini. Potremmo fare il tuo busto e poi fare una ricerca, spedirlo per il mondo, vedere se sopravvive. Si potrebbe fare. Ricerca operativa. Comunque lasciamo stare queste cose delle stampanti 3D, parliamo di cose serie. Finalmente Mint, la nostra nuova distribuzione, quella che stiamo promuovendo, la versione basata su Debian, si sono accorti che c'è un piccolo problema per cui Mate ogni tanto si blocca e non ti fa vedere nulla una volta che tu hai fatto il login. Cioè praticamente come l'EFI. No, perché almeno il nome utente password te lo fa mettere. Solo che quando provi a entrare in Mate ti si blocca completamente tutto e tu non vedi più nulla, non c'è allora, più un modo. Allora, ve la siete cercata, eh? Allora, non è che perché tu usi un'altra distribuzione devi stressarci l'anima, capito? Oh, noi usiamo la nostra perché è basata a Debian, testing. Poi queste cose su Debian vera non succedono. Esatto, ma neanche sulla testing, tra l'altro, succedono. E comunque hanno scoperto che per risolvere il problema è semplicissimo, basta mettere all'avvio un bel killall di gnome setting. Cioè, devi ammazzare il demon. Lo sistema, praticamente. Sì, perché poi si ritira su e stranamente funziona. Ma qual è il senso dietro questa cosa? Provaci ancora gnome settings? Sì. Potrebbe essere un buon titolo, effettivamente. Mi sa che lo useremo. Guarda, oggi ho sistemato uno scanner che non funzionava perché cercava, sane, cercava gli scanner di rete. Perché? Non me lo chiedere, però Epson era un modello Epson. L'ultima riga del file di configurazione di Sane per questo modello di Epson era net e andava a cercare nella rete. Stranamente, nessuno scanner di rete rispondeva. Perché non l'hai messo in rete, scusa, già che c'eri? E perché era USB. vabbè. Cioè, ho provato lo spinotto, ma non funziona. E perché non hai spinto abbastanza forte. Comunque, se usate la nostra bellissima distribuzione Mint, sappiate che basta che killate e riparte tutto. Basta killare. Tu killa che fai sempre bene. E a proposito di Mint, direi che visto che l'uomo del Giappone è tornato tra di noi, adesso lo risvegliamo perché era andato un attimo in catalessi. Mentre noi... Pronto? Sushi, vieni qua. E credo che sia pronto, non so se subito o fra un attimo. Fra un attimo, aspetta che metto la musichetta. A farci... Esatto, a farci un po'... A parlarci di... Quel mondo nuovo. Quel mondo nuovo di DistroWatch, per cui signore e signori... E soprattutto, dov'è Gentoo? E non c'è, lo sai che non c'è. Signore e signori, l'angolo di DistroWatch. Buonasera, benvenuti al consueto, vi sono mancato, lo so, angolo di DistroWatch. Allora, abbiamo un sacco di news. Dove parto? C'è mesi, ma l'avete fatto voi in mia assenza? No? Ma noi sì. Non siamo così... Non siete così distrowatchosi? Esattamente. Mentisci. Vabbè, allora partiamo dalle basi. È uscito un Linux di cui avevamo già parlato un po' di tempo fa, che era Porteus. Per i non fanatici è basato su Slackware e monta KDE4 e Razor QT, soprattutto quella interfaccia fichissima. Ah, sì, sì. Razor sì, QT. Fighissima, però è ancora, diciamo, il nome è fico. Sì, in fase di lavoro, vai, diciamo così. Ha bisogno di è un po' cazzo, ma fa niente. Poi c'è questo, non so neanche cosa sia, comunque il nostro amico Powell Pijanowski. chi? Ha rilasciato Sparky Linux 2.1 Ultra Edition. E beh, Powell Pigianowski. Che è una... praticamente no, è... c'è da dire, è una Debian basata su OpenBox. Mm. Apprezziamo lo sforzo. Ma... quindi una Debian e il nome. OpenBox però si chiama, scusa? Si chiama Sparky Linux 2.1 Ultra, tra virgolette, Ultra Edition. Senti lo sforzo. Vabbè, per tutti quanti è uscito il nuovo Parted Magic, che quello fa sempre bene. Serve, serve. Parted Magic è sempre una cosa buona. Aspetta, aspetta. Hanno già fatto una distribuzione basata su OpenCDE? No, hanno rilasciato CDE sotto licenza libera, adesso potrebbero farlo. Caspita, questa cosa mi sa che per la prossima puntata dobbiamo provarla. E poi vabbè, è uscito il nuovo, è dimenticato da un po' di gente, PC Linux OS, quello per Linux per gente poco skillata, diciamo. Tonta. È uscito anche un nuovissimo Linux di, rilasciato dall'amico, quest'altro è amico di quell'altro, mi sa, Jerry Besencon, qualcosa di simile, non so il francese. Linux Lite 1.04, questo è molto meno pretenzioso. Senza che grassi. È sostanzialmente un Ubuntu con XFCE. È un Ubuntu. Sì. Poi di altre cose notevoli, sì, è uscito il solito Web Converger, quella bellissima distribuzione per i chioschi. Quella è molto utile. A chi serve? Quella è sempre interessante, perché è uscito la prima release di OpenSUSE 12.3. che verrà rilasciata il 13 marzo, la versione finale. 12.3. È uscito poi il nostro amico Chakra Linux, di cui stavamo aspettando il nostro bellissimo Chakra Linux, che ricordiamo essere sempre il primo ad avere le feature nuove di KDE, e infatti questo esce con KDE 4.10. Sticca. Sticcate il tuo astuccio da cacciatore. È una cheat. E poi è uscito Rosa Linux. Finalmente Rosa. Rosa Linux. Che ricordiamo essere andare molto bene. Facciamo una classifichina. Aspetta, aspetta. Però questa settimana mi devi dire anche dove sta Trinity. Aspetta, è una distribuzione che sto imparando ad amare, soprattutto per la Futures. Tirami via la password di Windows. Va bene. La classifica di DistroWatch. Ah, stavo aspettando il motivetto. C'è il motivetto. Cioè, è l'unica roba che c'è anche jingle, cioè. Partiamo dalla posizione numero 10. Sì, tendenzialmente sì. Tendenzialmente sì. Perché se vuoi parto dalla 100, però no. Non... no, tanto sappiamo che Gentoo è sotto la 10. Per comunque c'è no, allora... Tu scherzi, ma sai che stavo cercando Gentoo e siamo... Mi sa che non è nella 10. È la 29esima posizione. Stiamo migliorando. No. La risposta è no, mi dispiace. Comunque, torniamo a noi. Decima posizione, abbiamo una new entry, che è Zorin Linux. Ma possibile mai? Chi è? Non lo so. Comunque dai, quella distribuzione, quella che c'è... ha un simbolo stupido come vabbè. Logo, vabbè. Metteremo dei link. Alla nona posizione, attenzione, abbiamo quella Debian di cui avevamo già parlato, che è Snow Linux. Snow Linux? Ho provato la Lightbeat. No, non è male, no, non è male. Ti dirò, avevo un portatile in ufficio. Coperto di neve? No, che era stato ripiallato. Piallato. E non si trovavano più i driver della scheda di rete wireless. Fai te. In Snow Linux c'erano. Sì, sì, c'era questa mia collega che doveva usarli. Ho tirato qua un CD, c'era su Snow Linux. E tu, dannazione. Ho detto, vabbè, vediamo. Ma sta dentro funziona. Bello. Quindi Snow Linux promosso e la nona posizione se la merita tutta. Non un paio d'anni. Non è vecchissimo comunque. Ho provato. Infatti, vecchissimo. Non c'è stato verso di avviarlo. Proprio di avviare, no, quello lì era già abbastanza nuovo. Ma quello è un altro problema. Vai. All'ottava posizione abbiamo Arc. Vabbè, quello è sempre lì. Quello è lì, suo posto. Sta lì. Alla settima posizione, di cui abbiamo preparato PC Linux OS. Sesta posizione, Debian. Alla quinta posizione abbiamo OpenSUSE, che sta lì. Quarta posizione in salita, Fedora. Per tutti i fanatici della serie. È riuscita ad uscire, finalmente. Finalmente, per cui ho avuto una... Ce l'ha fatta. Sono andati tutti terza sulla posizione. Pagina. Scusa, aspetta, ora sono andati tutti sulla pagina a vedere cos'è, perché hanno detto, è uscita Fedora, tutti, aspetta, cos'è che era? Fedora? Alla terza posizione, la top 3. Siete pronti? Vai con la top 3. La terza posizione è occupata da Ubuntu. In seconda posizione abbiamo il ormai affermato e non niente male Mageia. Non l'ho mai provata? No, è molto bella, è una gran distribuzione, funziona proprio bene, bella. Un saluto al gag che usa Mageia. Giusto, solo perché ci dà la possibilità di usare questa fantastica base. Usa Mandriva. Però ricordiamo, ciao. E in prima posizione abbiamo, vabbè, ovviamente l'ormai indiscusso dominatore delle classifiche di Linux Mint. Ma ci dice Linux Mint generico, quindi potrebbe essere un Linux Mint. Ma Mint di per sé, potremmo vedere qual è l'ultima una versione. Una qualsiasi. Va bene, quella con Ubuntu fondamentalmente. Sì, no, beh, sicuramente quella con Ubuntu che dovrebbe essere la versione 14, giusto? Tu mi insegni che 14. Signore e signori, questo era l'angolo di DistroVoce. Diciamo che anche le cose belle finiscono finalmente. Tipo Opencast? No, tipo che Gen 2, perché non ho capito perché questa insana guerra, un 29esimo posto. È un buon piazzamento. Il problema è che c'è un motivo del perché 29esima posizione. Hanno fatto, in pratica, DistroWatch funziona con una piccola applicazione. E devi scaricarla ogni giorno. E questa manda un risultato. Il problema è che Gentoo ogni giorno deve scaricarlo. Mo che lo compila, ci mette un pochettino sostanzialmente. Quindi è un po' cattivo. C'è un motivo. Bastardo. Va bene, direi che stiamo raggiungendo ormai il minutaggio classico di Opencast. Mi sarete anche un po' rotti le balle di ascoltarci. Direi di chiudere con un veloce reportage dal FOSDEM, che si è tenuto all'inizio del mese di febbraio in quel di Bruxelles. È vero che non ci hanno portato, è vero. Facciamo le voci di fondo, facciamo... dammi la birra! Siamo andati apposta per voi in Belgio alla più importante conferenza di sviluppatori di software libero, dove erano presenti quasi tutte le distribuzioni importanti, quindi c'era Debian, c'era Red Hat, c'era SUSE, c'era Ubuntu. C'era proprio lei di persona? Cioè c'era SUSE. Di persona? C'era il signor SUSE. C'era il cappello Quello è interessante. C'era il cappello di Red Hat, c'erano i distributori, gli sviluppatori di Debian con il Kilt, e c'erano i talk sulle cornamuse scritte con Arduino, gestite con Arduino. Interessante. Ma in particolare di interesse per il nostro gruppo c'era un talk sullo stato attuale dei driver liberi per i chipset video sotto architettura ARM. Oh, dunque chipset video per architettura. Com'è? Chipset. Ok. Dopo che abbiamo avuto questo importante contributo, la diapositiva era questa. Esatto. Avevamo lasciato i nostri eroi l'anno scorso con l'annuncio che era partito il reverse engineering dei chipset Mali per ARM. E mi ricordo che ne avevamo parlato a Opencast. Sì, di un progetto che non sarebbe arrivato da nessuna parte. E invece quest'anno hanno presentato i risultati pratici. Sono partiti facendo vedere il solito cubo che ruota senza sfarfallie e senza errori, ma non si sono accontentati di questo, e giusto per far vedere qualcosa di serio hanno fatto vedere una demo, praticamente quake arena che gira con i driver liberi per Mali. Quindi non tutti i Mali vengono per luce. Esatto, vedo che capisci. Allora ve la siete cercata, eh? Non solo, ma con il risultato che risulta essere due volte più veloce dei driver proprietari. Questo è interessante. Quindi dobbiamo trovare un chipset Mali? Ma sul mio c'è. Anche un po' su ovunque c'è un Mali, a parte dove c'è l'SGX. C'è un Mali dentro di te. In realtà al momento ci sono 4-5 chipset grafici per ARM. E la cosa interessante è che per ognuno c'è un pazzo che sta cercando di fare reverse engineering. La cosa importante è pazzo. Un pazzo, esatto. In alcuni casi più di uno. Sono sempre pazzo. Ma perché sei un pazzo da solo, in compagnia invece. Sti pazzi. Il caso peggiore sono 9 pazzi che hanno deciso che in mancanza di supporto da parte del produttore tocca fare il reverse engineering del chipset grafico presente sul Raspberry Pi. E questo non è, richiede veramente 9 pazzi, perché non è un chipset grafico, ma un DSP totalmente proprietario, del quale devono scoprire tutto. Però che è divertente. Che dire? Allora, ve la siete cercata, eh? Lei un po' stra abusata. Sì, oggi mi sì. dispiace, ma ne devo mettere delle altre? Sì, metti tipo così, aspetta. Vai. Ciao, sono Angelina Giolitti. E anche io ascolto Opencast Alpha. Per dire. Andava già meglio, grazie. Ok. Complimenti per la trasmissione. Complimenti per la trasmissione. Va bene. Come questo... diceva il mio meccanico. Dio mio. Basta birra. Mamma mia. Direi che la chiudiamo. A questo punto non siamo arrivati neanche dopo le birre, le famose birre libere di Fosdam. Questo è ancora prima, il problema è quello. Direi che... è bello che sta morendo dal ridere. E può ancora peggiorare. Può solo peggiorare. A questo punto direi che vi salutiamo, perché più di così non si può fare. È stato un declino dorato tutta la puntata, ormai abbiamo raggiunto il fondo. Vi lasciamo con i nostri contatti www.gl-como.it, dove potrete commentare, ascoltare e seguire i link per le varie notizie che vi abbiamo detto e per la musica che il buon Davide qua ha scelto per voi. Asuana Gana. Grazie, Davide. E vi lasciamo con brano. Questa la dico, e buon San Valentino. E buon San Valentino? Domani, così. Vabbè, non si sa quando usciremo in realtà sul web. Infatti, però, sicuro vabbè. Non usciremo oggi. Usciremo probabilmente il 15. Probabilmente. Così, in ritardo. Ok. Allora, prossima canzone. Nastia. Credo sia la Yasnai. Ok, e il titolo? Il titolo. Carta. Carta. Mettere degli occhiali. Carta. Carta Goroda New. Goroda New 1. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Сердце до сердца по линии, только ты осторожней ко мне и иди в этом городе. bel brano hai trovato. E non è che l'ho fatto apposta, corto, tutto a caso. Corto. Solo perché in copertina c'era la rossa. Gnocca. Russa. Russa, rossa, gnocca. Fai schifo, come al solito. И бегут потеряли своих делах, все вокруг.